Food Lab. Il cibo del futuro e il futuro del cibo. Di Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Alla romana, alla greca, poi c'è anche la giudia, non giudea, fanno nel Lazio, sì. E poi c'è un sacco di primi stiamo piatti. Stiamo parlando di ricette tipiche che hanno come protagonista il carciofo. Pensa, Federico, che noi, l'Italia, è il primo produttore mondiale e quindi partiamo proprio dal carciofo. Parliamo di carciofi perché è stato codificato il genoma completo di questo vegetale. Lo facciamo con chi ha partecipato allo studio. Luigi Cattivelli è qui con noi, benvenuto. Grazie. Lei è direttore del Centro di Ricerca per la Genomica Vegetale, che ha sede a Fiorenzuola in provincia di Piacenza. È un centro del CREA, che insomma è il nostro ente nazionale che si occupa di ricerca in ambito agroalimentare. Ecco, avete portato a casa questo grosso risultato. Non è il primo, nel senso che sono stati codificati già importanti come dire vegetali che sono protagonisti della nostra cucina o della nostra tradizione, come la vite, il pomodoro. Però ci concentriamo sul carciofo perché, appunto, l'abbiamo detto, siamo i primi produttori mondiali e poi vorremmo capire che cosa significa una volta che abbiamo questa carta d'identità molto approfondita del carciofo, che cosa ci serve, cosa ce ne facciamo. In generale, quando si riesce a decodificare il genoma di una specie coltivata, quello che si ha in mano è una serie di informazioni sui geni che sono presenti in queste piante. I geni poi controllano tutte le caratteristiche della pianta, quindi a cominciare dalle caratteristiche di produttività, le caratteristiche di adattamento all'ambiente, ma anche le caratteristiche delle qualitative dei prodotti che derivano da questa pianta. Quindi conoscere il genoma di una specie significa poterlo utilizzare le informazioni per migliorare la specie e fare piante che siano più idonee agli usi della moderna società. Per esempio, ci faccio un solo esempio, cosa potremmo fare? Potremmo per esempio migliorare che cosa? Diciamo che uno dei target è sicuramente il miglioramento dell'esistenza delle malattie, queste sono le cose più, più semplici, se vogliamo, e hanno un grande impatto. Oggi moltissime coltivazioni sono controllate, le malattie sono controllate mediante trattamenti antipesticidi, quindi con prodotti chimici. Mm-hmm. Introdurre resistenze a una malattia significa ridurre il carico chimico sull'agricoltura. Perfetto. Questa è una situazione che si verifica in tantissime specie, questo non è che non si faceva prima, si può fare, però avere in mano un'informazione del genoma consente di andare molto più veloci in questa direzione. E significa anche migliorare, ad esempio, le qualità, non so, organolettiche, proprio le qualità dell'alimento, si potrebbe? Sì, certamente. Una volta che uno ha in mano un obiettivo di aumentare un contenuto di una certa sostanza, ad esempio, uno può lavorare con le informazioni genetiche e arrivare a selezionare piante che hanno un contenuto superiore di una certa sostanza. E apriamo solo una piccola parentesi. Lei dice, appunto, una volta che abbiamo il genoma, è un lavoro enorme lavorare sul genoma di una pianta. Adesso parliamo del carciofo, che appunto non è un baobab, però comunque non c'entra, è comunque un lavorone. Sì, sono lavori che molto spesso derivano da collaborazioni, sono così grandi che richiedono collaborazione di tanti istituti. Cioè, nel caso del carciofo, il progetto in realtà è stato coordinato dall'Università di Torino e poi ha coinvolto una serie di istituzioni, tra cui la nostra. Questo perché oggi questi lavori sono così complessi che difficilmente un singolo istituto, un singolo centro di ricerca ha tutte le competenze necessarie per portarlo a termine. E questo del carciofo è ancora un caso, tra virgolette, relativamente semplice. Abbiamo anche casi ancora più complicati, come quello dei frumenti, dove veramente ci sono collaborazioni internazionali con decine di istituzioni coinvolte. Ma voi avete codificato il carciofo in generale? Perché poi dopo ci sono diverse tante varietà. Tutti questi lavori qua si inizia con una varietà che si chiama varietà di riferimento. In questo caso qua si sequenza una linea particolare che viene scelta così, in base a caratteristiche di convenienza genetica, per così dire, rendono più semplice il lavoro. Poi quello che c'è dietro è tutto un lavoro che verrà fatto successivamente, si chiama risequenziamento, quindi si vengono poi investigate anche le altre varietà della stessa specie per capire la diversità che c'è tra le varietà della stessa specie. Dal punto di vista tecnologico è molto più difficile fare la prima sequenza piuttosto che ripetere la sequenza di altri individui. Beh, certo, c'è una foto, poi dopo. È un lavoro successivo. Si segue questa traccia e si va a verificare la stessa traccia sugli altri individui. Certo. Quando si sceglie quale specie analizzare, in questo caso il carciofo, lo è stato fatto per la vite, state lavorando grandemente anche sul grano duro, che è appunto un'altra coltura tipica italiana. Li scegliete perché hanno una grande importanza anche per la nostra economia, per la nostra agricoltura? Sì, la scelta è principalmente legata all'importanza economica della specie o all'interesse che c'è dietro questa specie, come il caso del frumento, della vite, è stato fatto in Italia, è stato fatto il pesco, l'Italia ha partecipato al pomodoro, alla patata. Concludiamo dicendo che una volta che voi avete ottenuto questa banca dati importantissima del genoma, i biotecnologi che cosa fanno? Cioè adesso si apre la parte più stimolante, credo, del vostro lavoro per creare varietà che siano resistenti alle malattie, piuttosto che abbiano caratteristiche organolettiche, come dicevamo prima, piacevoli. Questo che tipo di lavoro è? È un lavoro che potremmo far rientrare nella categoria organismi geneticamente modificati, o si può fare anche dell'ibridazione, diciamo, con degli incroci classici? Allora, qui si apre un mondo. Il mondo ha tantissime sfaccettature. Da un lato queste informazioni qua possono servire per tracciare gli alimenti. Se uno conosce esattamente la sequenza del genoma di una specie, può tracciare la presenza di questo, del DNA di questa specie in qualunque alimento, fino anche a quello che abbiamo sul piatto. E questo poi è un aspetto di particolare rilevanza per tutte le industrie alimentari. Un altro utilizzo di queste informazioni qua è quello legato al miglioramento genetico, se vogliamo in forma tradizionale, cioè con l'uso di, diciamo, marcatori molecolari che consentono di introdurre tramite incrocio all'interno delle nuove varietà particolari caratteristiche, particolari geni, ma questo sempre tramite incrocio, ma con l'ausilio di conoscenze molecolari. Un ulteriore campo possibile, quello su cui si parla molto anche in Italia in questi mesi, è quello di utilizzare queste informazioni per fare quello che si chiama genome editing, cioè delle modifiche mirate, delle piccole mutazioni che vengono introdotte in specifici geni per cambiare leggermente alcuni caratteri della pianta. Oppure ancora si possono fare anche i più tradizionali OGM, cioè in realtà queste informazioni di per sé sono neutre, non è che sono utilizzabili solo per un tipo di applicazione, sono informazioni generali che possono essere applicate a tantissimi ambiti della ricerca genetica. Ok, allora intanto grazie. Grazie a voi. Arrivederci e buon lavoro. Seguite Foodlab qui su Radio 24. Alla prossima.